Cominciamo dicendo che Atene non è la Grecia, nel senso che il contesto urbano di una metropoli come Atene non è esemplificativo di come poi si vive nella maggior parte del paese, che sono piccoli centri, piccoli villaggi, isole, eccetera. Io penso che una delle grandissime differenze, vogliamo, della fase post-emergenza rispetto alla crisi è che da un paio d'anni a questa parte sono arrivati grandissimi capitali stranieri ad Atene, quindi c'è stata una riqualificazione, cioè in corso un tentativo di riqualificazione urbana, chiaramente porta dietro anche un conseguente tentativo di riqualificazione valoriale, quindi di come si vive in questa città. E io direi che questo è stato il cambiamento più grosso da quando in qualche modo è finita, tra virgolette, l'era dell'emergenza, in qualche modo, con l'ultima grandissima ondata di migratoria e soprattutto prima dell'accordo con la Turchia, appena chiusi i confini con i Balcani, diciamo, più alti del nord della Grecia, sono arrivati tantissimi ONG a operare nel suolo greco e anche tanti soldi per gestire la situazione migratoria, che sono arrivati un po' dal niente, nel senso che se fino alla settimana prima si parlava, come dire, della crisi greca come un fenomeno nazionale, quindi chiuso, che investiva la popolazione greca e basta, dal giorno dopo in poi il problema ha cominciato ad apparire unicamente inserito in un contesto di migrazione globale. C'è stata questa cosa della Grecia come porta del Medio Oriente, della necessità di gestire e di controllare i confini dell'Europa, eccetera eccetera. Quindi chiaramente una retorica estremamente nazionalista, estremamente escludente, xenofobica, ma che ha portato in realtà anche a un'attenzione solidale verso la situazione che la Grecia stava vivendo in questo momento, quindi non solo in termini di controllo ma anche in termini di accoglienza e di aiuti economici e concreti nella gestione della questione migratoria qui. Questo è un dato. L'altro dato è che, e questo credo sia anche riconducibile al tipo di politica interna che viene, come dire, così come si è costruita con il governo di Syriza, la Grecia di fatto si è aperta al mercato internazionale, nel senso che da 3-4 anni a questa parte, 4-5 in realtà, ci sono tantissime aziende europee, straniere, non solo europee, anche da altre parti del globo, che esternalizzano in Grecia. Quindi ad esempio c'è questo Teleperformance, che è l'azienda che fornisce servizi clienti ai grandi marchi più importante d'Europa, che ha esternalizzato i suoi uffici qui, quindi chiaramente con il costo del lavoro greco impiega persone che forniscono servizi clienti a brand, a marchi che non sono greci. Sulla falsariga di questa cosa qui anche altre aziende hanno fatto lo stesso tipo di investimento. C'è stato d'altra parte questo fenomeno artistico internazionale che documenta, la quale anche ha portato ad Atene, comunque al tessuto urbano di Atene, un grosso cambiamento. Documenta è un festival che si svolge a Kassel in Germania, d'arte contemporanea, d'arte pubblica viene definito. Questo vuol dire, nel suo essere un'avanguardia in qualche modo artistica, era una cosa abbastanza interessante, per cui Kassel ogni anno, che è una città molto piccola della Germania, senza grandi attrattive, si riempiva di queste, come dire, di queste installazioni d'arte, di questo discorso sull'arte estremamente pervasivo in tutta la città, e quindi la città per qualche, adesso non mi ricordo per quanto tempo durante l'anno, parlava d'arte. C'è stata questa decisione di spostare l'edizione del 2016 ad Atene, una scelta un po' aleatoria. Questo posso dire però quello che questo ha comportato per la città di Atene, per cui per un anno intero si sono viste enti, organizzazioni che avevano a che fare con questa manifestazione prendere in affitto o acquistare gran parte dello sfitto di lusso in qualche modo della città e rigenerarlo al fine di renderlo attivibile per questa manifestazione che è durata qualche mese e che poi ha preso le sue cose e se n'è andata. Questo chiaramente ha comportato una dinamica di riqualificazione urbana dall'alto, nel senso che è arrivato del capitale straniero, ha riqualificato intere zone della città, del centro, ha determinato un aumento degli affitti in quelle zone, una vera e propria dinamica di gentrificazione che poi è rimasta una volta che questa manifestazione artistica se n'è andata. andata. Questo comunque ha determinato un cambiamento, soprattutto nel centro urbano di Atene, molto grosso dal punto di vista urbanistico. Un altro e ultimo, ma estremamente legato a questa dinamica di gentrificazione, elemento di cambiamento è il sistema di Airbnb. Quindi il sistema di Airbnb che ad Atene ormai è pervasivo ha del tutto, come dire, travolto la modalità del vivere in città, così come la si conosceva fino ad oggi. Per prima cosa va detto che Atene, ma in generale la Grecia, è un paese dove c'è una grandissima quantità di case di proprietà. Questo sembra una contraddizione se pensiamo agli anni della crisi, in realtà non lo è, perché c'è stata una politica di incentivo all'acquisto degli immobili da parte dei governi post-dittatura, direi, quindi da dopo il 74, perché per non dover investire eccessivi soldi nel welfare veniva incentivato il fatto che le famiglie greche comprassero case, così da avere un patrimonio investito appunto da poter usare in momento di bisogno. Quindi è una prassi in Grecia, quello di era, adesso è molto più difficile chiaramente, ma era una prassi in Grecia quello di comprare delle case per i figli, e quindi c'è una grande quantità di case di proprietà. Questo chiaramente rispetto al sistema di Airbnb è congeniale, perché chiunque abbia una casa in più può, come dire, metterla a reddito, ma questo a catena determina l'innalzamento degli affitti, dei costi della vita nei quartieri dove queste residenze sono situate. Io parlo ad esempio del mio quartiere, che è Exarchia, dove io vivo da tantissimi anni. Non si trovano più affitti sotto una certa soglia, che per gli stipendi greci è molto alta. Se pensiamo che fino a 3-4 anni fa era normale trovare case, adesso dico dei costi che per l'Italia sembrano irrisori, ma che vanno comparati con gli stipendi medi greci, che sono intorno ai 600 euro, 600-700 euro, eh? Se fino a 4-5 anni fa era normale trovare case Exarchia che costassero intorno ai 300-320 euro, adesso il prezzo è lievitato ai 500, ai 600. Questo per degli stipendi normali di greci, che rimangono appunto, come abbiamo detto, intorno ai 600, tante volte 500 euro, capiamo bene come, come dire, i livelli di possibilità di vita nei quartieri siano praticamente impossibili da sostenere, no? E quindi quello che mi sentirei di dire è che, come dire, c'è in atto ad Atene un grande piano di gentrificazione del centro storico. Se girando per i quartieri del centro si vedono, come dire, tutti i tratti di una gentrificazione che è comune a moltissime altre capitali d'Europa, a parte un'estetica estremamente hipster, ma quello poi magari può essere un fattore estetico, no? E non sostanziale. Però è interessante capire come l'uso dello spazio urbano in qualche modo sia girato una logica che è unicamente quella del consumo. Se pensiamo alle grandi manifestazioni di Piazza Sintagma degli anni della crisi, no? I grandi movimenti sociali contro l'austerity, che miravano proprio all'apertura dello spazio urbano, al fatto che lo spazio fosse di chi lo abitava e che quindi dovesse essere fruito, e bisognasse trovare collettivamente dei modi di fruizione e di uso dello spazio e di anche rimpossessamento dello spazio, che fossero fuori da una logica commerciale, ma soprattutto, come dire, in funzione delle persone che che quello spazio lo vivevano. Il grande mutamento che è stato fatto passare in sordina è il fatto che lo spazio urbano della città oggi è uno spazio commerciale prevalentemente, dove regna la logica del consumo, quindi vengono magari dati anche dei finanziamenti alle imprese giovani, allo sviluppo turistico, ma tutto il lato di creatività sociale dal basso è stato completamente sopito. È un cambiamento che apparentemente porta un miglioramento dello stile di vita, se vogliamo, probabilmente sì, nel senso che se pensiamo in un'ottica depoliticizzata alla città, una città che è viva, che ha tanti locali, che ha tante attività culturali, ma per le quali attività culturali, per i quali locali bisogna pagare un biglietto d'ingresso, bisogna avere, come dire, una relazione commerciale di fruizione dello spazio, allora lì cominciamo a capire che cos'è la gentrificazione dello spazio, perché creiamo una situazione in cui fette della popolazione sono tagliate fuori dalla fruizione di quello spazio, perché non si possono permettere semplicemente di pagare, no? Quindi sono in qualche modo spinte ai margini. Comunque le situazioni più drammatiche, diciamo, della crisi sono terminate, l'assenza di farmaci e così via. Sì, io mi ricordo quando sono tornata nel 2000 e 13 dall'Italia per trasferirmi qui, e è una situazione veramente drammatica, nel senso che non solo si viveva una situazione di grande shock psicologico nelle persone per il lavoro che non c'era, per i soldi che non c'erano, per il welfare che crollava, eccetera, soprattutto questa cosa dei farmaci e quindi della necessità di sopperire in maniera auto-organizzata a delle lacune così grosse era evidente. Adesso io credo che nonostante ci siano ancora delle grossissime difficoltà, ci sia stata, come dire, una normalizzazione di una situazione di crisi. Come dire, se la fase acuta di emergenza si può dire terminata, di certo non si può dire che la crisi sia finita, perché cioè la crisi non esiste, ma non esiste nel senso che è un'invenzione, nel senso che quello che la crisi ha portato in Grecia è stata una normalizzazione di un nuovo stato di cose, un nuovo modo di vivere. E Tsipras in questo come ha influito secondo te? L'elezione di Tsipras, l'avvento di Syriza in Grecia è stato un momento estremamente interessante, estremamente ricco, nel quale si appoggiavano grandissime speranze di cambiamento. Qualunque tipo di speranza e di, come dire, illusione di cambiamento fosse stata deposta all'epoca nella politica di questo governo, è andata a farsi benedire in maniera molto velocemente. Cioè il taglio netto che c'è stato dopo il referendum sul no è stato incredibilmente sentito, nel senso che è come se si fossero infranti 2000 specchi in quel momento. Le politiche di austerity sono continuate esattamente come dire nella scia dei governi precedenti, e questo le persone l'hanno visto. A onor del vero, c'è da dire, sono state fatte delle riforme come quella sull'educazione, sui contenuti dei piani scolastici, dove si è cercato di far fronte a un nazionalismo estremamente invadente dei libri di testi scolastici nelle scuole greche, o tentativi di allargare i diritti civili alle coppie non tradizionali, alle famiglie non tradizionali. Ecco, tutto questo va riconosciuto, nel senso che non si può dire semplicemente che Syriza abbia continuato delle politiche di destra. Certo, le politiche economiche, e quindi tutto ciò che ha avuto a che fare con l'economia del paese, ha proseguito esattamente nel filone precedente, nel senso ci sono stati grandi cambiamenti. Questo è stato il grande tradimento, no? Che i greci hanno sentito nei confronti del governo di Syriza. Adesso, quindi, con questa situazione di crisi praticamente strutturale, diciamo, quale futuro vedi tu per la Grecia? Io temo che non ci sia un futuro possibile se non quello che è già presente, un paese dove, come dire, si possono fare sperimentazioni su nuove modalità di sfruttamento capitalista faccia comodo a un mondo capitalista, e quindi in questo senso penso che la Grecia rappresenti un terreno fertile.